facili, che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Buonasera a tutti e a tutti i radioascoltatori di Radio Alma 101.9 e in particolare a coloro che sono sintonizzati con noi in questo momento e che appunto stanno ascoltando i colori dell'anima. Vi ricordo che i colori dell'anima va in onda il lunedì dalle 21 alle 22. Siamo alcune persone che conducono questa trasmissione. Stasera in radio ci sono solo io, ma ho un ospite che vi presento subito, Giovanni De Gaetano. Buonasera. Buonasera. Allora, il professor Giovanni De Gaetano, di cosa ci parlerà stasera? Ah, possiamo parlare del tema di un convegno che c'è stato in questi giorni qui a Bruxelles, intitolato Birra, Alcol e Salute. Allora, quindi, il tema di oggi è sul consumo di alcol, in particolare parleremo della birra, appunto, con l'occasione di questo convegno che c'è stato qui a Bruxelles, ma parleremo anche in generale di salute, ovviamente di salute, di comportamenti alimentari corretti, anche di comportamenti più estesi, che possono quindi essere utili per la nostra salute. Allora, dunque, penso che molti dei nostri ascoltatori sappiano che il vino, probabilmente il vino rosso in particolare, fa bene alla salute, però non si parla molto della birra. E invece? E invece il tema del convegno era particolarmente dedicato a questa bevanda che in Belgio certamente ha perlomeno altrettanta importanza che non il vino o i superalcolici. Quando parliamo di alcol, di vino, di birra, certamente pensiamo a delle cose un pochino pericolose, al fatto che non dobbiamo bere prima di guidare, oppure se vogliamo salire su una scala o fare dei lavori di precisione. Quindi diciamo che l'attenzione dell'opinione pubblica, ma anche del mondo medico, al problema dell'alcol è stata ed è ancora un'attenzione di tipo pericoloso, di tipo dannoso, di studio dei possibili danni che l'alcol può indurre nel nostro organismo. Il tema del convegno a cui ho fatto cenno e al quale ho partecipato in questi giorni qui a Bruxelles voleva invece discutere e valutare il bere moderato, quindi come consumare moderatamente l'alcol, in modo particolare la birra, possa influenzare la nostra salute e influenzarla in particolare in modo favorevole. Allora, io conosco delle persone che oggi è venerdì, anzi no, oggi è lunedì, ma che il venerdì, più o meno finito il lavoro, se ne vanno in un bel pub, in un bel bar qui a Bruxelles. Se il tempo magari è discreto, si siedono fuori all'aria aperta, perché oltretutto questo può essere comodo per chi fuma, e cominciano a bere una birra, poi una seconda, poi una terza, poi magari anche una quarta. Ecco, va bene? Vedi Rosanna, tu hai nominato contemporaneamente due cose che sono molto dannose per la nostra salute. Il bere in maniera eccessiva, compulsiva, come avviene qui a Bruxelles, ma diciamo in generale in molti paesi del centro-nord Europa, e il fumo di sigaretta. Queste sono le due cause maggiori di danno per la nostra salute. Invece in Italia, dove io vivo, e nei paesi mediterranei in generale, siamo abituati di più a bere l'alcol, il vino, ma anche la birra, durante i pasti, moderatamente. Lo beviamo di fronte ai nostri figli, a tavola, con i nonni, con la famiglia. Il bere l'alcol è un momento naturale, spontaneo, del nostro comportarci, del nostro vivere. Non è qualche cosa che ci fa trovare insieme, come succede con amici che fanno il primo giro di birra e poi il secondo giro e poi il terzo giro. Al convegno è stato detto molto chiaramente che bere birra o alcol moderatamente, possibilmente durante i pasti, riduce il rischio di malattie cardiovascolari del cuore e dei vasi sanguigni, che sono la causa maggiore di malattie e di morte nelle nostre società. Ma il bere in eccesso quotidianamente, oppure in eccesso concentrato, per esempio il venerdì e il sabato sera, comporta dei danni molto seri per la nostra salute. E va bene, quindi questo lo terremo presente, ma andremo ancora un po' più in dettaglio nell'argomento. Io per il momento propongo una piccola pausa musicale. Mi raccomando, rimanete sintonizzati con Radio Alma, con I Colori dell'Anima, e a risentirci fra poco. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su I Colori dell'Anima. Ed eccoci dopo questa breve parentesi musicale, Il cielo d'Irlanda, a ritornare quindi a chiacchierare dell'argomento di oggi, to drink or not to drink, perché appunto stiamo parlando del bere, del consumare alcol. Naturalmente è ovvio che quando parliamo di questi argomenti, che sono abbastanza difficili e per i quali vengono anche fatte molte campagne contro l'utilizzazione dell'alcol, bisogna essere molto cauti. Però, come il nostro ospite in studio, professor Giovanni De Gaetano, ci diceva prima, ci sono due aspetti fondamentali, che è quello di consumare alcol moderatamente e poi possibilmente di consumarlo insieme ai pasti. Allora, insieme ai pasti è abbastanza chiaro, quindi a pranzo, a cena. Ma moderatamente cosa significa? Moderatamente è un concetto che può variare un pochino da una situazione a un'altra, da un paese a un altro, ma gli studi che abbiamo effettuato e che sono anche presenti in letteratura da parte di altri gruppi di studio sono concordi nel ritenere che moderatamente voglia dire uno o due bicchieri di vino al giorno per le donne e due o tre bicchieri di vino al giorno per gli uomini. Per quanto riguarda la birra, diciamo che il corrispondente in grammi di alcol di bicchieri di vino a cui ho fatto cenno sono una o due bottigliette di birra per le donne e due o tre bottigliette di birra per gli uomini. I superalcolici possono essere bevuti naturalmente, ma molto occasionalmente e con estrema attenzione ed estrema prudenza, perché per i superalcolici non ci sono ancora le prove che l'alcol ingerito in quel modo possa far bene al nostro organismo. Quindi piccole quantità, anche ben definite, ma il fatto di definire, che ne so, una bottiglietta, perché dipende dalla quantità di alcol che c'è nella bottiglietta, quindi... Certo, certo, noi ci riferiamo a delle bevande medie, ad un vino di 12% di alcol e ad una birra di 5-5,5% di alcol. Certamente se uno beve una birra con 10% di alcol, queste misure, queste quantità vanno diminuite, certamente. Ecco, quindi, allora, ti do del tu naturalmente perché ci conosciamo, siamo amici da molti anni, sei venuto quindi ad un convegno qui a Bruxelles dove si è parlato del consumo di birra. È ovvio che chiaramente i produttori di birra sono interessati a questo argomento perché a loro interessa bere la birra, e qui in Belgio siamo nella patria della birra. Io sento dire 600 tipi diversi, ma forse ce ne sono anche di più perché poi molti so che fanno la birra fatta in casa. Allora, ad un paese che è proprio per me il cuore della birra, possiamo dire di bere con moderazione? Beh, certo, bisogna poter apprezzare quello che si consuma, perché anche dopo aver bevuto in eccesso sia il vino che la birra, non c'è più il piacere che queste bevande apportano se consumate in moderazione, se consumate durante i pasti e in un contesto di amicizia, di convivialità, di serenità. Il fatto che ci siano tantissime quantità, qualità e varietà di birra in Belgio è una ricchezza di questo paese ed è una ricchezza di cui bisogna approfittare. Al convegno abbiamo detto molto chiaramente, io ho anche presentato dei dati scientifici ottenuti nei nostri laboratori, che bere birra moderatamente riduce il rischio di ammalarsi di malattie del cuore, l'infarto cardiaco per esempio, o anche di malattie del cervello, l'ictus cerebrale, l'ictus ischemico. Ma la cosa più importante è che bere birra moderatamente riduce il rischio di mortalità, il rischio di morire per cause anche diverse. Quindi avere il piacere di gustare una buona birra, un buon bicchiere di vino, sapendo che anche questo piacere si accompagna poi al poter vivere un pochino meglio, un pochino più in salute e magari qualche mese o qualche anno in più, non dovrebbe scoraggiare, anzi dovrebbe incoraggiare non soltanto i belgi ma tutte le persone, perlomeno in Europa, dove c'è una cultura dell'alcol molto antica. Allora, Giovanni, tu lavori a Pozzilli, in un centro che si chiama Molise. Nel Molise, che si chiama Neuromed, e in questo centro vi occupate quindi, tra l'altro, anche studiate gli effetti dell'alcol. Ma ci puoi spiegare in modo semplice in che cosa consistono questi studi? Noi facciamo degli studi che chiamiamo epidemiologici. Epidemiologici vuol dire che non studiamo un soggetto, un paziente singolo, come succede in ospedale. Se uno di noi sta poco bene, va in ospedale e ci si occupa di lui, e questo può essere anche oggetto di ricerca clinica. Noi facciamo una ricerca invece sulle popolazioni, cioè cerchiamo di capire come dei comportamenti diffusi più o meno in gruppi molto ampi di persone possano influenzare positivamente o negativamente la nostra salute. In questo momento e da alcuni anni abbiamo in corso uno studio che si chiama Molisani, Molisani perché si svolge in Molise, ma tra Moli e Sani c'è un trattino, perché già nel titolo dello studio abbiamo voluto sottolineare l'importanza della salute, l'interesse di capire perché, come, quando i molisani sono sani. È un gioco di parole un po', però è un problema molto serio, perché riguarda non tanto le malattie quanto appunto la salute e quindi la prevenzione delle malattie. Noi ci occupiamo di noi, della nostra salute, soltanto quando la perdiamo o quando temiamo di perderla. Abbiamo mal di testa, ci fa male da qualche parte e allora ricorriamo ai farmaci, ricorriamo alla farmacia, ricorriamo al medico, delle volte siamo costretti ad andare al pronto soccorso in ospedale. E pensiamo che la salute coincida con il medico, insomma, in sostanza. Invece dovrebbe coincidere la salute con il nostro, i nostri comportamenti di ogni giorno, il nostro modo di mangiare, appunto, di bere, il fare attività fisica, il vivere in maniera poco stressata, con convivialità. Addirittura qualcuno parla di tenerezza, che non è un atteggiamento mellifluo da donnicciole o da bambinetti a cui cambiare i pannolini, ma è un modo di rapportarsi l'un con l'altro con un grande rispetto, con una grande attenzione, con una grande tolleranza. Ecco, questo modo di vivere, questo stile di vita è molto favorevole, molto utile alla nostra salute e ci fa vivere meglio e ci fa vivere più a lungo. Il bere moderatamente è uno dei modi di vivere che contribuisce a questo benessere. Ecco, sfumiamo la canzone, molto bella, grazie di questo suggerimento, è una canzone che conoscevo poco. Allora, oggi in studio, ai Colori dell'Anima, stiamo parlando di bere alcol, naturalmente, bere alcol moderatamente, bere alcol durante i pasti, e ne stiamo parlando perché c'è qui ospite in studio con me il professor Giovanni De Gaetano, che è direttore a Pozzilli, al centro di ricerche di Pozzilli in Molise, e si trova qui a Bruxelles perché appunto è venuto per una conferenza, per un convegno su birra e salute. Allora, parliamo di birra perché appunto è l'argomento del momento, ma tu sei già venuto un'altra volta qui in studio, sei venuto a parlare, in particolare avevi scritto da poco insieme a Maria Laura Bonaccio un libro sulla crisi della dieta mediterranea, anzi la dieta mediterranea ai tempi della crisi. Allora, come si situa la birra oggi e in generale nel contesto della dieta mediterranea e quindi come poniamo l'alcol in uno stile di vita più completo? Ecco, hai detto molto bene stile di vita, perché quando parliamo di dieta mediterranea non è la dieta per dimagrire o come intendiamo abitualmente. Dieta viene una cattiva, diciamo, traduzione in italiano di una parola greca che vuol dire appunto stile di vita, modo di vivere. Quindi dovremmo parlare più di uno stile mediterraneo che comprende un certo modo di mangiare, di cui adesso diremo alcune cose, ma anche comprende un modo di vivere, di rapportarsi tra persone, di rapportarsi con la natura, con l'ambiente, di dare prevalenza a certi valori anche culturali e spirituali. Quindi lo stile mediterraneo è considerato oggi un modo di vivere e di alimentarsi il più sano che si conosca, tant'è vero che l'UNESCO lo ha considerato qualche anno fa come un patrimonio culturale dell'umanità, cioè lo propone come un esempio, come qualche cosa a tutta l'umanità, da osservare, da seguire, da considerare. Allora, è vero che la dieta mediterranea, come dice la parola stessa, nasce nel Mediterraneo, è composta di elementi, di cibi tipici del Mediterraneo, però proprio perché va al di là dell'alimentazione, si propone da parte dell'UNESCO a tutto il mondo come un modello culturale. Dal punto di vista alimentare, tutti sanno, o molti sanno, che la dieta mediterranea viene rappresentata con una piramide. Il concetto di piramide vuole far passare l'idea che in realtà non c'è niente che noi, di cui noi ci alimentiamo, del cibo che abbiamo a disposizione, perlomeno nei nostri paesi, debba essere eliminato. Ci sono invece la dieta della banana, la dieta ricca in proteine, la dieta che riduce i carboidrati o che aumenta i corpi chetonici. La dieta mediterranea non fa niente di tutto questo. Permette di mangiare, di assaggiare tutto quello che è disponibile stagione per stagione. Che cosa, allora, in che cosa consiste la novità e l'importanza della dieta mediterranea? E qui il concetto di piramide ci aiuta a capire, perché la piramide ha una larga base che si restringe man mano che la piramide va verso il vertice. Allora, se noi posizioniamo su questa piramide i cibi di cui ci alimentiamo, metteremo sulla base della piramide i prodotti di cui possiamo fare un uso relativamente ampio, quotidiano. E cosa mettiamo sulla base della piramide? Mettiamo la frutta, la verdura cruda, la verdura cotta, i cereali, soprattutto i cereali non raffinati. Una volta era questo il cibo, e invece poi abbiamo pensato che, per esempio, la farina, quanto più raffinata era, tanto meglio e tanto più nutrimento ci portava. Concetto giusto in periodi di crisi e di carestia e di difficoltà economiche, ma oggi con la raffinazione dei cereali abbiamo perso tutta una parte di queste sostanze, per esempio le fibre, che invece sono importanti per il funzionamento dell'intestino, per altre proprietà e caratteristiche che giovano alla nostra salute. Poi metteremo un pochino più su, quindi con una frequenza leggermente inferiore, metteremo il pesce, metteremo ogni giorno l'uso di grassi non animali ma vegetali, in modo particolare l'olio d'oliva, l'olio extravergine di oliva, che è una caratteristica proprio del Mediterraneo. E anche qui il concetto di moderazione è importante. E quando diciamo olio d'oliva non diciamo un mezzo litro di olio d'oliva per condire un'insalata, diciamo una quantità moderata che dia il gusto, il sapore, e che però non ecceda in calorie. Quindi useremo l'olio di oliva extravergine, lo metteremo sul pesce, lo metteremo anche un po' sulla carne bianca, pollo, tacchino. Useremo meno invece la carne rossa e i salumi. C'è stato recentemente molto rumore nella stampa perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità avrebbe, perché i giornali, poi i media hanno riportato queste notizie in maniera non sempre precisa, avrebbe lanciato un allarme sulla carne rossa come qualcosa di cancerogeno, cioè capace di produrre il cancro. Allora, innanzitutto la carne rossa non produce nessun cancro, tutt'al più se uno eccede nell'uso di carne rossa o di salumi può aumentare il rischio di ammalarsi di tumore, ma non che la carne sia un prodotto che genera, che produce tumori. Quindi anche le terminologie, anche il modo di comunicare questi concetti alla gente dovrebbe essere fatto con molta più attenzione. Comunque la carne e i salumi sono verso il vertice, al top della piramide, insieme ai dolci. Perché certamente gli zuccheri, soprattutto quelli che assumiamo con i dolci, ci portano la glicemia a squilibrarsi e comportano una serie di problemi, se non necessariamente sempre sotto forma di diabete, ma certamente come un fattore di rischio molto pericoloso per la nostra salute. Diciamo quindi che il concetto di moderazione si applica non solo all'alcol, ma a tutto. E certamente non si possono né elogiare né punire i singoli alimenti, perché da soli i singoli alimenti non fanno né troppo bene né troppo male. È proprio così, Rosanna, è proprio così. La moderazione è la parola chiave della salute e del benessere, che è, come ho cercato di dire prima, è un concetto anche più ampio dello stare senza dolori, senza mal di testa. La salute è qualcosa di più completo, è uno star bene fisicamente, psicologicamente, spiritualmente, e a questa salute certamente corrisponde un utilizzo dei cibi che noi troviamo in natura o che l'uomo produce, secondo lo stile mediterraneo. Fa parte di questo stile una quantità moderata di alcol. Nei popoli mediterranei era soprattutto la birra, qualche decina di anni fa, era soprattutto il vino, scusate, ma anche la birra sta guadagnando, anche in Italia sta guadagnando terreno, qui in Belgio certamente non bisogna fare propaganda perché è un prodotto nazionale, ma preferiamo dire l'alcol in moderazione si accompagna ai cibi della dieta mediterranea e fa parte integrante, quindi non è un sovrappiù, non è qualche cosa, fa parte integrante della dieta mediterranea. Allora non solo l'alcol in moderazione non fa male, ma se uno è astemio, diciamolo francamente, diciamolo esplicitamente, se una persona è astemia ma segue la dieta mediterranea, diciamo che riceve l'80-85% del vantaggio della dieta, non tutto il vantaggio, perché dal 15-20% del beneficio che noi riceviamo dall'insieme della piramide della dieta mediterranea è attribuibile all'alcol. Questo non vuole spingere gli astemi a bere, perché ognuno fa delle scelte personali per la propria vita, ma certamente l'idea che avevamo che la persona sobria, che le donne per bene non bevevano perché il bere era qualcosa di sconveniente, va cambiato decisamente. Bere moderatamente, accompagnare i pasti con un po' di alcol, che sia vino o che sia birra, rende il pasto più piacevole e lo rende più salubre. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Ed eccoci di nuovo in studio con i colori dell'anima, questa sera in compagnia di Rosanna e del mio ospite Giovanni De Gaetano, con cui stiamo parlando di alcol, consumo di alcol, di birra in particolare. Abbiamo parlato di dieta mediterranea E prima appunto abbiamo accennato a questo libro che tu hai scritto con Maria Laura Bonaccio, La dieta mediterranea ai tempi della crisi. E questo libro l'avete scritto qualche anno fa. Ci sono dei cambiamenti da allora? Beh, ti ringrazio di ricordare questo libro, ma la canzone del pescatore, posso fare un piccolo intervallo, mi fa ricordare che mi è stato chiesto se Cristo seguiva la dieta mediterranea o se era vegetariano, ed è molto interessante se uno legge i Vangeli alla luce delle conoscenze che abbiamo oggi sulla dieta mediterranea e si accorge che il mondo che viene riflesso, raccontato nei Vangeli, compreso il comportamento di Cristo, è completamente aderente al modello mediterraneo, a parte il fatto appunto che i discepoli erano pescatori, San Pietro era pescatore, e che Gesù stesso ha cucinato il pesce sulla brace, ha trasformato l'acqua in vino, e quindi sull'argomento di cui ci stiamo occupando oggi non c'è dubbio che nel Vangelo si trovano degli appoggi culturali molto importanti. E poi mangiavano verdure e camminavano molto. Gesù è andato a piedi, ha utilizzato mezzi di trasporto molto raramente, l'asino una volta per entrare a Gerusalemme, qualche volta la barca, ma faceva attività fisica, mangiava in maniera mediterranea, mangiava poca carne, l'agnello sicuramente, ma mangiava soprattutto il pesce, e beveva vino moderatamente, tranne alle nozze di Cana, dove ha trasformato circa 600 litri di acqua in vino, e lì certamente non è finita la festa in moderazione. Comunque, detto questo, ritorniamo all'argomento di attualità, che è la crisi economica. Tu, Rosanna, ricordavi che abbiamo scritto questo libro con Maria Laura ed eravamo preoccupati perché erano più delle ipotesi in quel momento che ci fosse in atto un abbandono della dieta mediterranea da parte delle nostre popolazioni, delle persone che partecipavano al progetto Molisani. Adesso abbiamo dei dati più consistenti che purtroppo ci confermano questa tendenza. Maria Laura sta continuando a studiare molto profondamente, in profondità, questo problema e soprattutto sta mettendo in evidenza che non è soltanto un fatto così di carattere economico o di abitudini alimentari che cambiano in rapporto al costo crescente della vita, ma che cambiano, che questi cambiamenti hanno un influsso negativo sulla nostra salute. Chi aderisce meno alla dieta mediterranea, anche in un contesto di un paese come il Molise o come l'Italia del Sud, che certamente è un territorio di tradizione mediterranea, non ha gli stessi vantaggi di salute che riceve chi segue la dieta mediterranea in maniera più precisa, più fedele. Ma il paradosso che gli studi di Maria Laura hanno messo in evidenza è che la dieta mediterranea era nata in un contesto di relativa povertà, dove soprattutto il mondo rurale, il mondo contadino, non aveva tantissime risorse, non poteva permettersi la carne tutti i giorni, la mangiava solo la domenica, i dolci, il gelato, si mangiava durante le feste, in qualche rara occasione, non alla fine di ogni pasto. Il pesce era relativamente raro, ma non aveva i prezzi che ha raggiunto attualmente, e anche dei cibi più abituali spesso appunto i contadini se li procuravano da soli, ma non bisognava andare dal gioielliere a comprare frutta e verdura come invece succede oggi. Tutto questo che cosa ha comportato? Ha comportato che perlomeno nella popolazione che noi abbiamo sotto esame e sotto studio del progetto Moli Sani, la dieta mediterranea è seguita da chi è più ricco. Allora uno può dire: dimmi il tuo reddito e io ti dirò com'è la tua salute, perché se tu hai un buon reddito puoi permetterti, è una famiglia di 4 persone, puoi permetterti il pesce 2 volte alla settimana, puoi permetterti 4-5 porzioni di frutta e verdura per ciascun membro della famiglia ogni giorno, puoi usare un olio extravergine di oliva certificato e non un olio che magari è stato mescolato con olio di provenienza non adeguata, di qualità non adeguata. E quindi tu che hai un reddito superiore avrai un vantaggio per la tua salute superiore. E quindi si sta maturando, e noi stiamo evidenziando dal punto di vista proprio statistico, scientifico, una grande ingiustizia. E l'ingiustizia è che chi è ricco, chi è più abbiente, ha una maggiore salute, si ammala di meno, muore di meno di chi è socio-economicamente più disagiato. Allora noi, il mio gruppo, ma in particolare io che ho occasione di parlare anche in contesti nazionali, internazionali, ormai termino le mie presentazioni sulla dieta mediterranea dicendo che sono stanco e non voglio più dire che la dieta mediterranea fa bene alla salute finché non si creino le condizioni in cui tutti possano beneficiare dei vantaggi della dieta mediterranea. Non è un problema medico, è un problema politico, un problema di salute pubblica. Si potrebbero introdurre delle misure che facilitano l'utilizzo dei prodotti della dieta mediterranea, per esempio ridurre l'IVA su frutta e verdura, fare degli sconti nei super, la grande distribuzione potrebbe offrire i prodotti della dieta mediterranea a prezzi più concorrenziali, creare tutta una serie di situazioni, mettere le mele invece che i dolcetti o le merendine nei distributori automatici delle scuole. Insomma, si potrebbero fare molte cose, per cui, a cominciare da ragazzi, la dieta mediterranea ritorni ad essere la regina delle nostre tavole e non una povera cenerentola messa sempre più in un angolo. Vabbè, quindi quest'ultima frase la prendo come un appello a tutto, diciamo, il sistema paese, ovviamente Italia, ma chiaramente è un appello poi che riguarda tutti i paesi. Ma visto che sono rimasti pochi minuti, io prenderei anche l'occasione, magari visto che sei qui Giovanni, Giovanni, che ricordo appunto oggi in studio c'è Giovanni De Gaetano, prenderei l'occasione anche per magari dire 2 parole sullo studio Moli Sani. L'hai già menzionato più volte, hai detto che sta scritto Moli-Sani e tra l'altro le informazioni di questo studio sono anche disponibili al sito www.moli-sani.org, giusto? Sì, è così, esattamente. Ecco, quindi chi vuole sapere di più di questo studio può andare al sito, però appunto se ci puoi dire magari nei pochissimi minuti che restano qualcosa in più. Certamente, Rosanna, ti ringrazio di darmi questa opportunità di dire 2 parole su uno studio che ci sta prendendo molta attenzione, molta energia, ma anche ci sta dando molte soddisfazioni. Lo studio è stato pensato agli inizi di questo millennio, degli anni 2000, è cominciato nel 2005 ed è terminata la prima fase nel 2010, quindi durante i primi 5 anni ogni anno abbiamo selezionato a caso, per essere rappresentativo, un campione della società molisana adulta da 35 anni in su senza limiti di età superiore, e abbiamo studiato di queste 5.000 persone all'anno, di ciascuna di loro, tutta una serie di parametri, dal peso all'altezza, alla pressione, i livelli di colesterolo, di glicemia, alla funzione respiratoria, all'elettrocardiogramma, e poi abbiamo avuto informazioni sullo stile, gli stili di vita, quindi sull'alimentazione, sull'attività fisica, sul fumo e sulla situazione socio-economica, che poi si è rivelata molto importante per poter fare gli studi a cui ho fatto riferimento pochi minuti fa, dei rapporti tra il contesto socio-economico e la salute e l'utilizzo della dieta mediterranea. Finito questa prima fase, che ha permesso di raccogliere milioni di informazioni e di dati, cosa che è stata possibile grazie allo sviluppo delle tecniche informatiche e del nostro gruppo di informatici, che ci ha permesso e ci permette ancora di fare questo studio senza utilizzare un foglio di carta, perché è tutto registrato, tutto conservato su supporto informatico, quindi non abbiamo abbattuto neanche un albero per poter fare questo studio su 25.000 persone in Molise. Dopo il 2010 stiamo seguendo questo gruppo e stiamo cercando di vedere che cosa è successo dal momento in cui noi li abbiamo visti e li abbiamo potuti visitare. E questo si chiama follow up e ci sta dando una serie di informazioni estremamente importanti, perché c'è qualcuno che ha avuto un infarto, qualcuno che ha avuto un ictus, la gran parte è rimasta bene in salute, c'è qualcuno che anche purtroppo è deceduto, ma questi dati tristi noi li possiamo correlare a quello che avevamo misurato e visto al momento del primo contatto. E quindi possiamo dire che chi aveva la pressione in un certo tipo ha avuto più facilmente una certa malattia, oppure si è mantenuto più facilmente in salute, e così via. Questo tipo di informazioni è estremamente utile e man mano che passa il tempo diventerà sempre più importante e sempre più un modello da proporre anche in altre situazioni. Ecco, siamo veramente arrivati alla fine. Comunque ti ringrazio molto di essere venuto. Magari tra un anno o due, quando tornerai, ci parlerai appunto di questo follow up. Grazie a te, Giovanni De Gaetano, appunto, che sei stato ospite qui in studio ai Colori dell'Anima questa sera. Grazie a te, Rosanna. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori e soprattutto agli italiani che vivono in Belgio. Io sono stato 5 anni all'Università di Lovanio per il mio PhD, quindi mi considero uno di loro. Grazie mille, e naturalmente vi ricordo che quindi la trasmissione ritornerà ancora lunedì prossimo. Buona serata a tutti, grazie cari radioascoltatori e ciao da Rosanna.